Smart City, la città intelligente. Nel 1965 il matematico inglese Irving J. Goode, collega di Alan Turing, uno dei padri dell'informatica, scrisse che la prima macchina ultra intelligente è l'ultima invenzione che l'uomo dovrà fare. Una tale macchina infatti sarebbe per definizione più intelligente di qualunque altro uomo e poiché tra le attività intellettuali umane c'è anche l'invenzione di macchine intelligenti, essa sarebbe in grado di progettare macchine ancora più intelligenti. Senza dubbio, a quel punto vi sarebbe un'esplosione di intelligenza. Un saluto da Maurizio Melis, benvenuti a questo speciale Smart City, parliamo di intelligenza. Non che se ne veda molto in giro, direte voi, ma come avete capito le cose potrebbero cambiare. Infatti dall'inizio del Novecento è in corso un progetto grandioso, forse il più rivoluzionario di tutti quelli intrapresi dall'umanità. Parliamo del tentativo di comprendere come funziona il cervello e di emularlo creando un'intelligenza artificiale. È chiaro che la comparsa di intelligenze artificiali di livello umano addirittura superiore cambierebbe per sempre il corso della storia, eppure un simile obiettivo potrebbe ormai essere a portata di mano. Questa almeno è l'opinione di Ray Kurzweil, secondo cui la prima intelligenza artificiale di livello umano dovrebbe venire alla luce entro il 2020, cioè insomma dopodomani. Kurzweil è considerato quasi universalmente il padre dell'intelligenza artificiale. I suoi algoritmi sono alla base dei sistemi più diffusi al mondo per il riconoscimento di caratteri scritti e per l'interpretazione del parlato. Software come Siri, l'assistente vocale di Apple o Dragon Dictation sono tutti basati sugli studi di Kurzweil. Kurzweil, che è anche un grande studioso di trend tecnologici. In un libro degli anni 90 intitolato The Age of Intelligent Machine, Kurzweil aveva fatto 147 previsioni per il 2009. Di queste 115 si rivelarono esatte, 12 quasi esatte, cioè Kurzweil sbagliò decennio azzeccando però la previsione, solo il 3% di queste previsioni si rivelarono completamente sbagliate. E in un libro invece intitolato Come creare una mente, che è del 2012, edizioni Apogeo, Kurzweil spiega perché è convinto che la comparsa della prima intelligenza artificiale di livello umano sia dietro l'angolo. E sarà proprio lui, il nostro Virgilio, diciamo così, in questo breve viaggio alla scoperta dell'intelligenza artificiale. Viaggio che comincia così. Signora Mondaini, purtroppo sono dolente di comunicarle che la pallonata è stata fatale. Il colpo purtroppo ha lesionato il cervello irreparabilmente. Vabbè, allora che si fa? Ci sarebbe una sola cosa da fare, signora. Sì. Un esperimento mai tentato finora, per eseguire il quale però io ho bisogno della sua autorizzazione. Ah, ho capito, lei vorrebbe trapiantare un cervello. Va bene? Però, professore, mi raccomando, faccia in fretta perché le prove del balletto. Sì, ma signora, io però sento il dovere di comunicarle che probabilmente, dopo il trapianto del cervello, suo marito potrebbe non essere più se stesso. Ah, professore, la prego, non mi illuda. Oh, mamma mia, come si è fatto tardi? Io vado alle prove del balletto e poi torno, eh? Ah, senta, professore, già che c'è, scelga un cervello come si deve, eh? Di nuovo tante cose, arrivederci, professore. Dottoressa Proietti, operiamo. Uffa! Ma quanto ci mettono a trapiantare un cervello? Ah, tutto bene? Ma dal punto di vista clinico, la membrana pareto sismo cerebro canal turbo reattivo risponde. Ora però c'è da ricostruire la psiche. Ah, perché aveva anche quella? Sì, il paziente adesso è come un bambino, signora. Bisognerà fargli memorizzare tutto il passato. Bisognerà raccontargli chi era, cosa faceva, come viveva. E tutto questo verrà fissato nelle sue cellule sismo paranacrito vegeta ultraparenchimatiche. Queste, secondo me, non le ha mai avute. Comunque, professore, ci penso io allora. Bene. Grazie tante. Di nuovo, professore, arrivederci. Arrivederci. Era Sandra Mondaini, l'avete riconosciuta tutti in uno sketch del 1975 intitolato Trapianto di cervello. Che comicità a parte ci aiuta a riflettere su due aspetti molto importanti. Primo, la distinzione fondamentale che ognuno di noi fa tra l'organo cervello e il fenomeno mente. Il medico tra una supercazzola e l'altra parla di psiche. Secondo fatto importante, il fatto che la mente, così come la nostra stessa identità e autocoscienza, siano fondati sull'apprendimento, che anzi la capacità fondamentale di cui è dotato il cervello e che contraddistingue l'intelligenza sia proprio la capacità di apprendere. Ma in concreto questo che cosa significa? Che cosa apprende di preciso il cervello? L'anatomia del cervello è nota da decenni, nei dettagli, così come il fatto che il cervello è diviso in aree dedicate a funzioni diverse, aree dedicate alla vista, all'udito, all'attivazione dei muscoli motori, soprattutto le mani, eccetera, eccetera. Ma in che modo tutto ciò si traduce in quanto ognuno di noi sperimenta, cioè una mente cosciente e la capacità di pensare? Che cos'è un ricordo nel nostro cervello? In che cosa consiste un pensiero? È quasi impossibile pensare di replicare l'intelligenza artificiale senza prima rispondere a queste domande. Ebbene, Ray Kurzweil è convinto sostenitore della cosiddetta Pattern Recognition Theory of Mind, cioè della tesi secondo cui l'algoritmo fondamentale del cervello sia il riconoscimento di forme. Ogni volta che il cervello incontra una nuova forma, è in grado di memorizzarla e collegarla in senso gerarchico, cioè secondo un qualche rapporto logico, con le altre forme già memorizzate. Ma che cos'è una forma? Beh, una forma può essere un oggetto qualunque, reale o astratto. Per esempio, una mela è una forma, ma anche alcune sue parti, come i semi o il concetto del tutto astratto di superficie curva, sono delle forme. A sua volta, la mela rimanda ad altre forme, come per esempio la forma relativa alla torta di mele o la forma collegata al concetto di dolce. Anche concetti etici, filosofici, matematici hanno le proprie forme di riferimento. Inoltre il cervello ha un alto livello di ridondanza. Per le forme che incontriamo più di frequente, per esempio la lettera A in tutte le sue varianti o il viso di una persona cara, possono esistere migliaia di riconoscitori di forma diversi nel nostro cervello. E ogni volta che una forma viene riconosciuta, per esempio quando vediamo la mela di qui sopra, tutti i riconoscitori di forme collegati si mettono in allerta, mentre si indebolisce l'attività di altri riconoscitori di forma. Per esempio la vista di un paio di baffi ecciterà tutti i riconoscitori di forma collegati ai vostri conoscenti di sesso maschile, li allerterà, potrebbe essere uno di queste persone, e contemporaneamente indebolirà tutti quelli collegati alle vostre conoscenze di sesso femminile. Anche se, guardando meglio, questo non vi impedirebbe di riconoscere vostra moglie, magari truccata da uomo, per esempio a partire da altri riconoscitori di forma che individuano il portamento femminile. Allora sentiamo cosa scrive Kurzweil a proposito di cosa sia, secondo questa tesi, un ricordo. Dobbiamo tenere conto a questo punto anche dell'idea che le forme che abbiamo imparato a riconoscere, per esempio un particolare cane o l'idea generale di un cane, una nota o un brano musicale, sono esattamente lo stesso meccanismo che sta alla base dei nostri ricordi. I nostri ricordi sono di fatto forme organizzate come liste che abbiamo appreso e che riconosciamo quando ci vengono presentate con lo stimolo opportuno. Se dovessimo leggere la mente di qualcuno e dare un'occhiata a quello che accade esattamente nella sua neocorteccia, sarebbe difficilissimo interpretare i suoi ricordi. Quello che vedremmo è l'attivazione simultanea di milioni di riconoscitori di forme. Un centesimo di secondo più tardi vedremo un insieme diverso, ma altrettanto numeroso, di riconoscitori di forme attivati. Ciascuna di queste forme sarebbe una lista di altre forme, ciascuna delle quali sarebbe una lista di altre forme e così via, fino a raggiungere le forme semplici più elementari a livello più basso. Ciascuna forma nella neocorteccia è dotata di significato solo alla luce di tutte le informazioni veicolate nei livelli che stanno al di sotto di essa. Una vera lettura della mente, quindi, comporterebbe necessariamente non solo identificare le attivazioni degli assoni pertinenti all'interno del cervello di una persona, ma anche esaminare sostanzialmente tutta la sua neocorteccia con tutti i suoi ricordi per capire quelle attivazioni. Insomma, secondo Kurzweil e gli altri sostenitori della teoria del cervello come riconoscitore di forma, questo accendersi e spegnersi di milioni di riconoscitori di forma al ritmo di 100 volte al secondo, insomma, questa specie di albero di Natale stroboscopico sarebbe in ultima analisi ciò che chiamiamo pensiero. A questo punto però sorge spontanea una domanda. C'è qualche prova che la struttura del cervello sia consistente con questa visione? Ebbene, la risposta è sì, è una risposta che possiamo dare da pochissimo tempo, perché quanto emerge da studi recentissimi, resi possibili dalle più recenti anche tecnologie di indagine del cervello. In particolare parliamo degli studi condotti dal neuroscienziato svizzero Henri Markram, i quali non solo danno conforto a questa tesi, ma permettono anche di stimare il numero di riconoscitori di forma presenti nel nostro cervello. Infatti, Markram ha trovato evidenze di una struttura ripetitiva, una sorta di circuito di base che con poche modifiche è presente in tutte le aree del cervello. Ecco che cosa scrive Mark Cram in un articolo del 2011. Sentiamo. Il nostro studio ha trovato prove di aggregati innati, un po' come Lego, di poche decine di neuroni. Le connessioni tra aggregati possono combinarli in superaggregati all'interno di uno strato neocorticale, poi in aggregati di ordine superiore in una colonna corticale e infine nell'aggregato dell'ordine più alto possibile, rappresentato dall'intero cervello. Acquisire ricordi è un po' come fare le costruzioni con i Lego. Ciascun aggregato equivale a un blocco di Lego che contiene qualche pezzo di conoscenza innata elementare su come elaborare, percepire e rispondere al mondo. Quando blocchi diversi si uniscono, formano quindi una combinazione speciale di questi precetti innati che rappresentano la conoscenza e l'esperienza specifica di un individuo. Secondo Kurzweil, una buona stima del numero di neuroni di cui mediamente è composto un riconoscitore di forma, cioè uno di questi mattoncini Lego, è di circa 100 neuroni. E poiché ci sono più o meno 30 miliardi di neuroni nel cervello umano, i riconoscitori di forma presenti nella testa di ognuno di noi sarebbero circa 300 milioni. Ora, poiché negli ultimi anni sono stati sviluppati vari software, come quelli per il riconoscimento di caratteri scritti e più recentemente per il riconoscimento del parlato, e anche vari componenti hardware che nei rispettivi campi di applicazione agiscono esattamente come dei riconoscitori di forma gerarchici, resta aperta a questo punto una sola domanda, ovvero cosa serve per emulare tutti questi 300 milioni di riconoscitori di forma? Infatti, se è vero che il cervello è un riconoscitore di forma gerarchico e che la mente ha questa origine, e se è vero che siamo in grado di realizzare dei software che eseguono le stesse attività di base dei riconoscitori di forma, allora siamo in grado di realizzare una intelligenza artificiale. Tutto si riduce a una questione di potenza di calcolo. Smart City, la città intelligente. Eccoci di ritorno in studio, Maurizio Melis al microfono. Per chi si fosse messo in ascolto solo ora, stiamo parlando di intelligenza artificiale e in particolare della tesi espressa in un libro Come creare una mente, scritto da Ray Kurzweil, padre dell'intelligenza artificiale, secondo cui la prima intelligenza artificiale di livello paragonabile a quello umano vedrà la luce nel 2020. A nessuno può sfuggire che un tale evento sarebbe, a dir poco, un fatto epocale, sia per le implicazioni filosofiche che per le implicazioni pratiche che avrebbe la diffusione di macchine intelligenti quanto e anche più di un uomo. Ma perché Kurzweil è così ottimista sulla possibilità di raggiungere così rapidamente questo traguardo? Allora, ascoltate questo audio, è in inglese, ma anche se non lo capite in questo caso non importa, fate caso alle voci, notate qualcosa di strano? Kathleen Kenyon's excavation of this city mentioned in Joshua showed the walls had been repaired 17 times. Watson. What is Jericho? Correct. 400, same category. This mystery author and her archaeologist hubby dug in hopes of finding the lost Syrian city of Urkesh. Watson. Who is Agatha Christie? Correct. Let's finish Chick's Dig Me. Allora, quello che avete sentito è l'audio di una puntata molto particolare di Jeopardy. Jeopardy è un gioco televisivo molto popolare in America, il cui scopo è indovinare a quale domanda risponde a una certa affermazione. Per esempio, se dico «è l'uomo che per primo è sbarcato sulla Luna», la risposta giusta è «chi è Neil Armstrong?». Nell'audio che avete sentito, una delle voci non è umana, è di Watson, il supercomputer dell'IBM che nel gennaio del 2011 ha sconfitto in diretta TV i due campioni mondiali, diciamo così, di Jeopardy. Watson è il progenitore della prossima generazione di manuali e sistemi di assistenza e se non può essere definito intelligente, beh, poco ci manca. Nessun umano infatti sa esattamente che cosa c'è dentro, dato che è basato su degli algoritmi che sono in grado di autoevolvere e che, a parte un primo bagaglio di conoscenze strutturate ricevute dai progettisti, gran parte di ciò che sa lo ha appreso da solo, leggendosi tutta Wikipedia e anche un bel po' di altri siti. Ma quanto è intelligente Watson? Beh, per quanto possa vincere a Jeopardy, Watson non è più intelligente di un essere umano, così come non lo era, per esempio, il computer che batté Kasparov a scacchi, ve lo ricordate un po' di anni fa. Tuttavia, la performance di Watson è impressionante, ma soprattutto impossibile da pensare anche solo pochi anni fa. Ed ecco che ci avviciniamo alla domanda con cui ci siamo lasciati alla fine della prima parte di trasmissione. Quanto deve essere potente un computer per simulare un cervello umano? Beh, una prima risposta potrebbe essere: dipende da quanto effettivamente è complesso. Non vi sorprenderà scoprire che l'opinione di Kurzweil in merito è molto netta. Sentiamo. Riflettete un attimo su che cosa significhi complessità. Potremmo chiederci: una foresta è complessa? La risposta dipende dalla prospettiva che si sceglie. Si potrebbe notare che esistono migliaia di alberi nella foresta e che tutti sono diversi tra loro. Poi si potrebbe continuare notando che ciascun albero ha migliaia di rami e che ciascun ramo è del tutto diverso dagli altri. Poi si potrebbe continuare descrivendo le contorte e peculiarità di ciascun singolo ramo. La conclusione a quel punto sarebbe che la foresta ha una complessità che va al di là della nostra più sfrenata immaginazione. Ma questo approccio significherebbe letteralmente concentrarsi sugli alberi senza vedere la foresta. Sarebbe corretto dire che il concetto di foresta è più semplice del concetto di albero. Lo stesso vale per il cervello, che ha un'analoga enorme ridondanza, in particolare nella neocorteccia. Sarebbe corretto dire che c'è più complessità in un singolo neurone che nella struttura complessiva della neocorteccia. Come del tutto evidente, il ragionamento di Kurzweil ha delle conseguenze sul livello di profondità a cui è necessario spingere una simulazione del cervello perché essa possa manifestare intelligenza. E ciò che sostiene lo scienziato in pratica è che non è necessario simulare il cervello in tutti i suoi dettagli per ottenere un'intelligenza artificiale. Per esempio, il Blue Brain Project è un progetto internazionale che mira a realizzare entro il 2023 una simulazione completa del funzionamento del cervello umano. Lo scopo di questo progetto non è ricreare l'intelligenza, ma fornire un modello virtuale di cervello su cui poter eseguire dei test e fare degli studi. Secondo Kurzweil, ebbene, per simulare l'intelligenza basterebbe una simulazione del cervello molto meno raffinata. Per esempio, non sarebbe affatto necessario riprodurre tutte le attività metaboliche dei neuroni come si propone di fare il Blue Brain Project, perché non c'entrano nulla con l'intelligenza. Ma allora, quanto deve essere potente un computer affinché possa esibire intelligenza? L'idea di Kurzweil è che quanto dobbiamo simulare assomigli molto a un calcolatore formato da 300 milioni di processori, quindi tantissimi, i quali però lavorano a una velocità abbastanza bassa, circa 100 cicli al secondo, ma con un livello di parallelismo molto molto spinto, dato che i 300 milioni di riconoscitori di forma del nostro cervello sono tutti operativi contemporaneamente. Se traduciamo tutto questo nelle specifiche di un ipotetico computer, che cosa troviamo? Troviamo che dovrebbe essere in grado di svolgere circa 10 alla 16 calcoli al secondo, che sono più o meno quanti ne eseguono oggi i più grandi supercomputer esistenti. E dovrebbe avere questo supercomputer una capacità di memoria di circa 20 miliardi di byte, un numero tutto sommato abbastanza modesto già oggi. Ma c'è di più, infatti sulla base dei trend a cui da decenni è soggetto il costo della capacità di calcolo, tutto ciò nel 2020 costerà circa $1,000. È il risultato della ben nota legge di Moore, secondo cui le prestazioni dei componenti elettronici raddoppiano ogni 18 mesi a parità di prezzo. È uno scenario incredibile. Infatti, le ricadute della comparsa di esseri intelligenti artificiali sarebbero impressionanti, dall'economia fino all'etica. Un esercizio nel quale per ora si sono avventurati quasi solo gli scrittori di fantascienza. Sentiamo. Sei in un deserto. Stai camminando sulla sabbia e all'improvviso. Questo è il test. Sì. Sei in un deserto. Stai camminando sulla sabbia e all'improvviso. Quale? Vedi. Non ha importanza quale deserto, è del tutto ipotetico. Com'è che mi ci trovo lì? Magari sei infastidito, forse volevi stare per conto tuo, chi lo sa. Guardi in terra e vedi una testuggine, Leon. Arranca verso di testuggine? Te. Testuggine? Che cos'è? Sai cos'è una tartaruga? Sicuro? Stessa cosa. Mai vista una testuggine. Però ho capito che intende. Allunghi una mano e rovesci la testuggine sul dorso, Leon. Inventa lei le domande, signor Holden. Oppure gliele scrivono. La testuggine giace sul dorso, la sua pancia arrostisce al sole rovente. Agita le zampe cercando di rigirarsi, ma non può. Non senza il tuo aiuto. Ma tu non l'aiuti. Come sarebbe non l'aiuto? Sarebbe che non l'aiuti. Perché, Leon? Sono solo domande, Leon. In risposta al tuo quesito, c'è chi le scrive per me. È un test concepito per provocare una reazione emotiva. Continuiamo. Descrivi con parole semplici solo le cose belle che ti vengono in mente. Riguardo a tua madre. Mia madre? Sì. Sai che ti dico di mia madre? Ebbene, molti di voi avranno riconosciuto una delle prime scene del film Blade Runner, film mitico. È quella in cui uno degli androidi protagonisti del film viene sottoposto a una versione un po' rivista, diciamo così, del test di Turing. Turing fu uno dei padri dell'informatica e propose questo test nel 1950 in un articolo sulla rivista Mind. Parliamo di un test per determinare se una macchina sia in grado di pensare. O in altri termini, un test per distinguere un essere senziente da qualcosa che non lo è, magari ci assomiglia. In effetti il supercomputer Watson, che batte tutti a Jeopardy, fallirebbe subito un test del genere. Insomma, verrebbe subito fuori che non pensa come un umano. Ma secondo Kurzweil non ci vorrà molto perché compaiono i primi computer in grado di farlo e quindi anche di superare il test di Turing. Come ci comporteremo di fronte a questa eventualità? Come ci comporteremo di fronte a entità di questo tipo? Ascoltate cosa scrive Kurzweil in proposito. Immaginate in futuro di incontrare un ente, un robot o un avatar, completamente convincente nelle sue reazioni emotive. Ride in modo convincente alle vostre battute di spirito e per parte sua vi fa ridere e piangere. Vi convince della sua sincerità quando parla delle sue paure e dei suoi desideri. Sembra in effetti come una persona. L'accettereste come persona cosciente? L'idea di coscienza è alla base del nostro sistema morale. E il nostro sistema legale a sua volta è edificato, sia pure non rigidamente, su quelle convinzioni morali. Se una persona estingue la coscienza di qualcuno, come nel caso di un assassinio, questo per noi è un atto immorale e, con qualche eccezione, un crimine grave. Se distruggo la mia proprietà, probabilmente è accettabile. Invece, se la mia proprietà comprende un essere cosciente come un animale, in quanto proprietario di quell'animale non ho necessariamente la libertà morale o legale di farne quello che voglio. Esistono, per esempio, leggi che sanzionano la crudeltà nei confronti degli animali. Poiché gran parte del nostro sistema morale legale si basa sulla protezione dell'esistenza e sulla prevenzione di sofferenze non necessarie a enti coscienti, per effettuare giudizi responsabili dobbiamo rispondere alla domanda: chi è cosciente? Nessuno si preoccupa molto oggi della possibilità di provocare dolore e sofferenza al software del nostro calcolatore. Ma quando il software del futuro avrà l'intelligenza intellettuale, emotiva e morale degli esseri umani biologici, anche questa diventerà una preoccupazione genuina. La mia posizione è che accetterò come persone coscienti enti non biologici che siano pienamente convincenti nelle loro reazioni emotive e la mia previsione è che in genere anche il resto della società li accetterà. Ebbene, è chiaro che la comparsa di forme di vita artificiali, di robot, di avatar dotati di consapevolezza avrebbe certo delle conseguenze inimmaginabili sul nostro stile di vita e forse anche sulle nostre convinzioni più profonde. Ma secondo Kurzweil questo sarebbe in realtà solo il primo passo di un processo destinato a modificare l'uomo ancora più in profondità. Se infatti il tipo di tecnologie che stiamo sviluppando per ricreare l'intelligenza sono coerenti con il modo in cui l'intelligenza si è sviluppata nel mondo biologico, non c'è motivo di pensare che prima o poi le due intelligenze non possano essere fuse. Torniamo da Kurzweil per sentire che cosa ci dice in proposito. L'intelligenza che creeremo grazie alla retroingegnerizzazione del cervello sarà in grado di migliorarsi rapidamente, in un ciclo di progettazione iterativo e accelerato. Anche se il cervello umano biologico è dotato di notevole plasticità, ha un'architettura relativamente fissa, che non può essere modificata significativamente e una capacità limitata. Non possiamo aumentare i suoi 300 milioni di riconoscitori di forme portandoli, poniamo, a 400 milioni se non per via non biologica. Una volta raggiunto quel risultato, non ci sarà motivo per fermarsi a un particolare livello di capacità. Potremo proseguire e dotarlo di 1 miliardo di riconoscitori di forme, o di 1.000 miliardi. Dai miglioramenti quantitativi derivano passi avanti qualitativi. Il passo più importante nell'evoluzione di Homo sapiens è stato di tipo quantitativo, lo sviluppo di una fronte più ampia per fare spazio a una maggior quantità di neocorteccia. Una maggior capacità neocorticale ha consentito a questa nuova specie di creare e analizzare pensieri a livelli concettuali più elevati, e il risultato è stata l'apertura dei molti campi dell'arte e della scienza. Aggiungendo altra neocorteccia in forma non biologica, possiamo attenderci livelli qualitativi di astrazione ancora più alti. Insomma, i mammiferi hanno inventato la neocorteccia ormai qualche decina di milioni di anni fa. È stata questa la loro principale innovazione evolutiva. I primati parecchi milioni di anni dopo, hanno inventato come mettere tanta neocorteccia in poco spazio, cioè ripiegandola su se stessa, facendo sì che il cervello assumesse l'aspetto che noi tutti conosciamo, e ora l'essere umano sta studiando come ampliare la propria neocorteccia aggiungendo neocorteccia artificiale. È un processo che pare inarrestabile e il risultato finale, come scrisse Irvine J. Good, non potrà che essere un'esplosione di intelligenza. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a settimana prossima con il meglio di Smart City. Buona continuazione qui su Radio 24.